Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko e benvenuti o bentornati in questa primissima puntata di Fuji Comics del 2020. Innanzitutto direi di augurare un buon inizio dell'anno a tutti quanti e a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che mi hanno seguito nelle precedenti puntate del 2019. Insomma, bentornati o benvenuti in questa prima puntata del 2020. Spero che abbiate passato delle fantastiche vacanze natalizie, vacanze di, insomma, di Capodanno, della Befana, di tutte quante. Ormai le vacanze sono terminate e in questa quasi grigia giornata, ma sono sicura che come sempre con la magia di Fuji Comics anche questo mercoledì sarà splendente. Infatti piano piano sta venendo fuori il sole. Ore 10:34 inizia ufficialmente la 12ª puntata di Fuji Comics. Il format non cambia nonostante sia cambiato l'anno e quindi parleremo sempre di fumetti, che sono il tema centrale di queste due ore di chiacchierata. Si parlerà come sempre di eventi nella città bolognese, ma non solo, quindi già vi do qualche spoiler, qualche anticipazione, tante interviste, tante chiacchiere, le novità sempre sul mondo dei fumetti. Insomma, Fuji Comics rimane sempre fedele a come era iniziato nel 2019. Ovviamente raccontateci come è andato questo inizio anno, se avete già iniziato a leggere qualche libro, qualche fumetto soprattutto, e mandateci un messaggio al 333-180-9494 tramite SMS, WhatsApp o Telegram. E prima di continuare con le nostre chiacchiere direi di partire da un pochino di musica. Ci andremo a ascoltare Soko, che è il nome d'arte di Stefanie Alexandra Mina Sokolinski, che è una cantatrice, polistrumentista, attrice e danzatrice francese. Questa ragazza ce le ha tutte. È nata a Bordeaux, nell'Occitania francese, da padre russo di origini in parte polacche e da madre francese di origini italiane. Quindi anche sulle provenienze geografiche, veramente un po' da tutta Europa e non solo, perché anche Russia e Polonia. E la sua storia è un po' particolare perché inizia tutto nel 2006, anno in cui ha messo su MySpace una sua canzone registrata semplicemente con il cellulare nella sua camera da letto, e il titolo della canzone era I Kill Her. Il video ha ottenuto subito oltre 3 milioni di visualizzazioni, 3 milioni di contatti. È stata poi seguita da una casa discografica, è diventata disponibile su iTunes e su altri portali europei di musica e ha scalato tutto le classifiche digitali in Danimarca, Belgio, Francia, anche Europa, Australia, Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma veramente dappertutto. Ed è stata anche utilizzata, così piccola curiosità, da Stella McCartney come tema musicale per la sfilata parigina dell'ottobre 2007. E fatemi sapere anche se già con questo inizio musicale capite quale sarà il primo argomento di cui parleremo oggi, perché è la colonna sonora di un telefilm molto famoso prodotto da Netflix nel 2019. Quindi ora ci andiamo a ascoltare Soko con We Might Be Dead. We might be dead by tomorrow. I can't go on wasting my time adding scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. Thank you. didn't have to face your mother losing her lover without saying goodbye, without saying goodbye, because she didn't have time. Judge what's in your heart, but if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready for life? So let's love for me, let's love loud, let's love now, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough. E partiamo un po' questa selezione musicale con un dolce risveglio da Soko con We Might Be Dead. E appunto, chissà se avete già capito di quale serie TV stavo parlando. Vi ho già dato qualche anticipazione, prodotta da Netflix, diventata molto famosa nel 2019. Beh, se non l'avete ancora capito, sto parlando di The End of the Fucking World. È appunto una serie TV che ha spopolato nel 2019, composta ormai da 2 stagioni. E in realtà l'idea della serie TV prende spunto da un fumetto che è appunto l'omonimo nome, quindi sempre The End of the Fucking World. Questo fumetto mi è stato regalato da una mia carissima amica proprio per questo Natale ed è stata la mia prima lettura del 2020. Fateci sapere ovviamente sempre tramite un messaggio al 333-180-9494, tramite SMS, WhatsApp o Telegram, qual è stato, se c'è già il primo fumetto, la prima lettura del 2020. Il mio è stato proprio questo, e quindi come consiglio di lettura di questa puntata di Fuji Comics vi vorrei portare proprio la lettura di The End of the Fucking World. E anche la musica in questa prima parte di playlist di Fuji Comics sarà proprio collegata a questo fumetto e quindi a questa serie TV, perché proprio uno dei capisaldi della serie TV prodotta da Netflix è stata la scelta delle colonne sonore, che è diventata molto conosciuta e molto famosa. Successivamente la puntata continuerà con la classica intervista, che sarà un po' particolare, mi piace un po' cambiare queste puntate di Fuji Comics, e quindi non ci sarà un preciso ospite con un preciso fumetto, ma bensì un progetto editoriale, un magazine web che si chiama Niente da dire, e ho avuto la possibilità, il piacere di parlare con Daniele Daccò, uno dei fondatori, uno dei principali protagonisti di Niente da dire. Con lui appunto abbiamo fatto una bella chiacchierata su questo progetto culturale che si trova sul web, e ci ha dato anche già qualche spoiler sulle prossime uscite di Niente da dire. Successivamente faremo un po' di chiacchierate sulle classifiche dei fumetti usciti nel 2019, sulle novità in uscita nel 2020, e ovviamente la puntata si concluderà con gli eventi della settimana bolognesi, e non solo, perché ci sposteremo fino a Modena ed è per delle fiere dei comics. E quest'oggi avrà una voce particolare, perché il nostro Alessandro ha terminato il tirocinio e quindi non mi può più prestare la sua voce, ma insomma ho avuto il piacere di far leggere gli eventi della settimana dal nostro fantastico direttore Alessandro Cannella. Quindi rimanete sintonizzati tutte le 2 ore per sentire insomma anche gli eventi della settimana. Ma io direi di continuare ancora con un po' di musica. Ci andiamo a ascoltare Vanda Jackson con Funnel of Love. Oh, deep into the funnel of love. My poor old head is a-reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Poor old head is a-reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. The funnel of love, deep into the funnel of love, deep into the funnel of love. E lei era Wanda Jackson con Funnel of Love, cantante e chitarrista statunitense che viene considerata la prima cantante donna ad essersi dedicata alla musica rock and roll ed è spesso citata come regina del rockabilly. Ovviamente anche lei con la sua Funnel of Love fa parte della colonna sonora di The Hand of Fucking World. E a proposito di colonne sonore e sigle, facciamo partire la sigla del consiglio della settimana e torniamo per parlare di questo fumetto. Il consiglio della settimana. Come vi dicevo, la serie TV prodotta da Netflix ha spopolato veramente nel 2019. È composta da 2 stagioni da 8 episodi l'una e ogni episodio dura all'incirca 20 minuti, quindi una serie comunque molto rapida che effettivamente si guarda in un pomeriggio, purtroppo. Appunto, il titolo è The End of the Fucking World, è una black comedy britannica. I due protagonisti sono James e Alyssa, interpretati da Alex Lauter e Jessica Barden, che sono insomma alle prede con una fuga alla scoperta dell'universo un po' sentimentale, un po' dell'universo che li circonda, come vi dicevo è stata tratta in realtà dall'omonimo fumetto di Charles Forsman. Il fumetto è composto da circa 200 pagine e quindi, come poi gli episodi della serie TV hanno appunto preso dal fumetto, il ritmo della narrazione delle vignette è molto serrato, molto incalzante, e i protagonisti si alternano a vicenda i vari capitoli del fumetto. In Italia il fumetto è edito da 001 Edizioni ed appunto è la mia prima lettura del 2020 e anche uno dei fantastici regali di Natale fatti dalle mie fantastiche amiche. Ma parliamo un po' del fumetto e tralasciamo un attimo la serie TV. Diciamo, la cosa più evidente di questo fumetto scritto da Charles Forsman è che le sue 200 pagine, 208 pagine per essere precisi, si bruciano veramente in 10 minuti, 15 minuti di lettura, che non è una cosa brutta, anzi una cosa che io ho apprezzato tantissimo, nonostante il dispiacere di finirlo così in fretta, ma insomma ti viene proprio voglia di leggerlo, di continuare a sfogliare queste 200 pagine. La storia, se avete visto la serie TV, più o meno è la stessa, quindi questi due adolescenti in fuga, che sono sempre James e Alyssa, quindi anche i nomi corrispondono. James viene presentato come un ragazzo un po' disadattato, introverso, al limite della sociopatia, come si vede anche nella serie TV, e Alyssa anche lei comunque al limite della sociopatia, ma che decide di seguire in questa fuga disperata James. Una cosa su cui invece differiscono serie TV e il fumetto, ma anche questa non è una critica, è il, non so come dire, l'universo British, black comedy British, che prende spunto soprattutto nella serie TV, mentre manca un po' nel fumetto. Il fumetto infatti è fatto in maniera molto più piatta e poco contestualizzato. Si capisce che siamo in America innanzitutto, ma ci sono pochi sfondi, poche appunto, si capisce poco dove ci troviamo, perché la cosa più importante, più fondamentale, che deve risaltare in queste 200 pagine sono le emozioni e gli sguardi fra i due ragazzi, appunto, che scappano dalla quotidianità di un'America un po' disastrata. Le scenografie sono appunto scarne e minimali, i capitoli molto brevi, infatti sono 8 pagine all'incirca l'uno, e come vi dicevo prima si alternano in maniera regolare le due voci narranti, quindi James e Alyssa si danno cambio una alla volta, capitolo dopo capitolo. I vari capitoli sono formati da delle vignette che vanno all'incirca dalle 6 alle 9 vignette, e questo è appunto la modalità che l'autore, quindi che Charles Forsman, ha deciso di tenere per avere proprio questo ritmo sostenuto che ti permette di leggere il fumetto all'incirca in 10-15 minuti e mangiartelo veramente. Io vi consiglio veramente la lettura di The End of Fucking World. Vi ripeto che in Italia è stato edito da 001 edizioni ed è di Charles Forsman. Vi consiglio la lettura nonostante abbiate già guardato la serie TV, ancor meglio se non avete guardato la serie TV, vi consiglio prima di leggere il fumetto e poi magari di andarvi a guardare la serie TV, soprattutto la stagione 1, perché in realtà la stagione 2 diciamo prende un po' spunto da se stessa, nel senso che non c'è un riferimento nel fumetto, quindi è andata avanti un po' per le sue senza considerare quello che Charles Forsman ha scritto. Ma ho visto anche un paio di interviste, comunque lui è molto contento sulla riproduzione della serie TV del suo fumetto, quindi insomma sono tutti d'accordo. E continuiamo ancora con un po' di musica, e sempre rimaniamo ovviamente sulle colonne sonore di The End of the Fucking World, e adesso ci ascoltiamo Graham Leslie Coxon con Walking All Day. Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do, trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do, trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do, I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do, wanna get to touch you. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Walking all day with my heart on fire, that's what I've gotta do. Abbiamo appena ascoltato Graham Leslie Coxon, cantautore, chitarrista e anche pittore britannico. Forse molti di voi lo conosceranno come il chitarrista dei Blur, ma comunque ha continuato appunto la sua carriera da solista. Ed è proprio lui, è proprio Graham, ad aver curato la colonna sonora della serie TV The End of the Fucking World. E prima dello stacco pubblicitario ci andiamo a sentire anche l'ultima canzone per così chiudere il cerchio delle colonne sonore di questa serie TV, e ci andiamo a ascoltare i Tallycraft con Superboy and Supergirl. I Tallycraft sono una band indie pop di Seattle formata nel 1995. Diciamo sono famosi per due motivi: uno perché sono noti, diciamo, per la loro etica do it yourself die, che cioè pubblicano i loro album soltanto esclusivamente con etichette indipendenti, quindi fatti da solo, do it yourself. L'altro motivo per cui sono diventati famosi è che la loro musica è stata associata con il genere del twee. Che cos'è il twee? È un diciamo, questo termine è stato utilizzato inizialmente in maniera un po' dispregiativa, perché il termine twee, che deriva dal suono della parola sweet, storpiata nel linguaggio infantile dei bambini, identificava inizialmente un qualcosa di, come dire, troppo sdolcinato, troppo sentimentale, troppo delicato, quasi da diventare fastidioso, da diventare un po' disgustoso. E sta di fatto che i Tallycraft sono appunto un po' considerati precursori di questo movimento pop twee, e sono stati appunto anche loro utilizzati all'interno della colonna sonora e scelti proprio da Graham Leslie Coxon per far parte di The End of the Fucking World. E quindi noi ce ne andiamo a ascoltare con Superboy and Supergirl. Superboy, Supergirl, well I've got a question for your super world. What gets you through? Who gets you past? And how do you fly so fast? Is it the fame? Cause everybody knows who you are. Well, it can't be the same. Cause I hear you're from outer space, pretty far. And Superboy's got his problems, and girl's got her hang-ups. And I know that it can't be easy to be Superboy in a mixed up world these days. Or a Supergirl in a thankless world these days. So fast, was it the fame? ore 11:02, siamo tornati in diretta sempre su Radio Città Fujiko, sempre con la vostra Rachele Copparoni e sempre con Fuji Comics. Vi ricordo anche le varie modalità con cui potete contattarci. Ovviamente andate sul nostro sito www.radiocittafujiko.it, nel quale potrete trovare tutte le nostre interviste, articoli, sia quelle di Fuji Comics ma anche del resto della redazione di Radio Città Fujiko. Altrimenti potete mandare un messaggio al 333-180-9494, ve lo ripeto, 333-180-9494, tramite un SMS oppure su WhatsApp o su Telegram. E fateci sapere, mi raccomando, come state, come sono andate le vostre vacanze, come è andato il vostro capodanno, se vi state riprendendo da queste feste infinite, che cosa avete mangiato, che cosa avete fatto, se avete ballato, non avete ballato, avete già letto un fumetto oppure no, non li leggete, insomma, fateci sapere tutte quante le curiosità al nostro numero di telefono. Vi ricordo anche le modalità con cui potete contattare me medesima o andare a risentire le varie puntate del 2019, ormai mi fa un po' strano dirlo. E, insomma, potete andare o sulla pagina Facebook di Fuji Comics oppure cercarmi come Rachele Copparoni, o altrimenti, se volete vedere un po' il dietro le quinte, diciamo le anticipazioni delle prossime puntate, cosa accade durante la preparazione di queste due ore di diretta, potete anche seguirli sulla pagina Instagram di Fuji Comics e insomma lì vedrete un po' il dietro le quinte della preparazione di queste due ore di diretta. E continuiamo anche con un po' di musica prima di addentrarci nell'intervista di oggi, di questa 12ª puntata di Fuji Comics. Questa è una canzone che mi sta un po' nella testa da qualche giorno, quindi decisamente cambio musicale rispetto alle colonne sonore di The End of the Fucking World. È da un po' che mi gira in testa Big City Life dei Mattafix. I Mattafix erano, perché ormai penso si siano sciolti da tanti anni, un duo hip hop britannico formato da Marlon Rudette e Pretis Irigi, è divenuto famoso proprio per i singoli Big City Life e anche per Leaving Darfur. A proposito del Darfur, i Mattafix sin dall'inizio della loro carriera hanno manifestato un forte impegno sociale proprio per il sostegno dei diritti umani in Darfur e in favore della cessazione delle ostilità nel paese, e sul sito ufficiale della band era proprio possibile aderire a una campagna sia facendo delle donazioni che anche inviando una lettera aperta alle Nazioni Unite. Quindi un applauso per i Mattafix, che adesso non mi ricordo gli anni, però insomma già avevano un forte impegno sociale. E ora ci andiamo a ascoltare Big City Life dei Mattafix. Funny how hard we try. across the seas and the oceans. A permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try forget my rationalize up no matter what me try. Big city life, in my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, try forget my rationalize up no matter what me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon me case. Big city life, me try forget my rationalize up no matter what me try. Big city life. E loro erano i Matafix con Big City Life, e come possiamo dimenticarcela, penso che era nelle nostre orecchie tutti i giorni, veramente quando io ero un po' più piccina di adesso. E mentre dietro di me in via Zanardi 369 sta venendo su un sole meraviglioso che mi sta scaldando veramente, torniamo a parlare di fumetti, e insomma in questo caso in maniera un po' più particolare rispetto al solito, perché oggi vi volevo presentare questo progetto, questo magazine online, questo sito web che si chiama Niente da Dire. Niente da Dire è appunto un portale di divulgazione culturale, un portale di opinione, un magazine online che ospita sotto la sua ala numerosissimi autori italiani. Si parla di satira, si parla di informazione, si parla di recensioni, di arte, insomma un po' di tutto quello che è culturale, ovviamente anche di fumetti. Di loro stessi dicono, vi leggo che è molto divertente, le cose grandiose, sia buone che orribili, ci lasciano senza niente da dire, ma non senza un'idea. Noi siamo quell'idea, siamo quel momento di stupore e di affollamento morale che esplode in una decisione importante appena dopo il niente da dire. I membri fondanti di questo sito web sono Alessandra Zanetti, Daniele Daccò, che è appunto colui con cui ho avuto il piacere di parlare, e Monica Fumagalli. Anche se le collaborazioni sono tantissime e crescono di giorno in giorno, ci sono professionisti veramente da ogni settore e hanno anche l'appoggio mediatico di Dottor Commodore, della sua enorme community che sicuramente conoscerete o avete quantomeno sentito nominare. Potete trovarli appunto su www.nientedadire.it, che è il loro sito principale, il loro appunto portale di divulgazione, sito di cultura e anche di satira. Dietro le quinte anche su Instagram potete trovarli anche in libreria con l'annuario pubblicato dalla loro casa editrice, che prevede le loro migliori copertine a prezzi più mordaci, come dicono loro. Sono anche in giro per il mondo con le avventurose spedizioni organizzate dagli amici di Blueberry Travel e Isola Bianca. Si trovano anche in edicola con la loro rubrica sulla rivista mensile Fumo di China, e come li ho conosciuti io, si trovano anche in fiera. Infatti sono sempre presenti a Lucca, Milano, Torino, Roma, insomma i più grandi poli fieristici in Italia non mancano con la loro presenza, e io li ho proprio conosciuti quando sono andata quest'anno per la prima volta nella mia vita a Lucca Comics, e ho avuto anche la possibilità di vedere il loro magazine, che di solito è online in versione appunto cartacea stampata apposta per il Lucca Comics. (Musica) Come vi anticipavo, ho avuto il piacere, l'onore e la possibilità di parlare con Daniele Daccò, uno dei fondatori di questo network. Probabilmente lo conoscerete nel web come Rinoceronte. Lui è un sceneggiatore, è un autore di fumetti, di romanzi e anche di editoria per ragazzi. È un giornalista per Wired, Playboy e Fumo di China. Appunto fondatore della rivista Niente da Dire, scrive programmi televisivi e libri game, che sono quindi un mix tra dei libri e dei giochi, appunto, e come dice lui si definisce mezz'orco barbarico di livello 18. Questa cosa molto nerd, chissà in quanti l'avranno effettivamente capita. Andiamo a sentirci la chiacchierata che io e Daniele Daccò ci siamo fatti proprio ieri. Siamo qui con Daniele Daccò di Niente da Dire. Buongiorno Daniele, benvenuto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, sono appena atterrato. Ah, da dove vieni? No, dal pianeta dei sogni, mi sono svegliato da poco. Ah, buongiorno allora. Allora, siamo qui per parlare appunto del progetto Niente da Dire. Ti volevo chiedere un po' come è nato il progetto, che cos'è, chi lo compone e soprattutto anche da dove viene questo nome un po' particolare, perché in realtà avete tanto da dire. Beh, si spera in realtà, perché abbiamo tanto da dire. Allora, il progetto è un'evoluzione, è un, vorrei dire traguardo, ma in realtà non lo è, perché è un punto di inizio in realtà di quello che abbiamo sempre voluto fare. Con il nostro progetto precedente abbiamo portato avanti un'idea che si è evoluta appunto in Niente da Dire, che è questo magazine, questa rivista online che è una raccolta di tante rubriche, di tanti autori con diverse opinioni. Queste opinioni vengono appunto illustrate e raccontate per cercare un confronto, per migliorare insieme a chi segue e chi ci legge. Quindi più che un traguardo è stata una nostra necessità di scrittori coinvolti di dire la propria e cercare, non dico una soluzione, ma comunque un punto d'incontro con il lettore. Sai, noi qua a Fuji Comics parliamo tanto di fumetti, quindi ti volevo chiedere un po' qual è il vostro rapporto con i fumetti, perché soprattutto tu li componi, li scrivi, ne parlate tanto, fate interviste, dibattete sulle ultime uscite di fumetti, quindi qual è un po' il vostro rapporto proprio con i fumetti? I fumetti sono una delle colonne portanti di Niente da Dire, proprio perché al di là che molti delle nostre penne ne scrivono, sono coinvolti e ci lavorano con i fumetti, però ne parliamo continuamente anche. Diciamo che siccome Niente da Dire nasce anche dalla voglia di essere felici, di svegliarsi ogni mattina e con il sorriso, parliamo delle nostre passioni e tra le nostre passioni ci sono i fumetti, quindi molto spesso ogni mese un motivo per parlare di fumetto c'è sicuramente. Sulla mia pagina il Rinoceronte, ma anche su Niente da Dire, quello delle mie colleghe Viola, Fiori Bionda, Onigiri, si parla sempre di fumetto in un modo o nell'altro, che sia poi il fumetto occidentale, orientale, è secondario. Io ne parlo per lavoro, perché ne sto scrivendo uno anche adesso. Alessandra Furibionda sta per cominciare il suo primo fumetto, ma anche Viola e Onigiri ne leggono continuamente, Onigiri specificatamente manga, quindi siamo sempre in giro su tra una vignetta e l'altra, insomma. I remember when I lost my mind. So pleasant about that place, even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough, I just knew too much. Does that make me crazy? Vogliamo anche, già che ci siamo, ricordare un po' i canali con il quale contattarvi, con il quale appunto leggere i vostri articoli, i vostri fumetti. Abbiamo diverse rubriche sulla rivista, che ripeto esce ogni 15 del mese, che possono essere contattate tramite la nostra mail, quindi info@nientedadire.it, per parlare direttamente con noi, per comparire negli articoli e dare la propria idea. Poi sui social ovviamente basta trovarci con nientedadire.it, sia su Instagram che su Facebook. Se poi volete leggere invece qualcosa di nostro, basta andare in fumetteria. Ultimamente io sono uscito con un volume per la Magic Press che unisce un po' il fumetto e il romanzo a tema sessualità per il mio lavoro su Playboy. A proposito di questo tema qua, visto che l'hai citato tu, ho visto che tieni una rubrica che si chiama Playrino. Sì, allora, in realtà Playrino è una costola che nasce da Il corno del rinoceronte, che è la rubrica comica che gestisco ormai da un paio d'anni su Playboy. Quella rubrica è una serie di racconti comici che parlano delle cose buffe che succedono a letto, no? I problemi, i guai, ma anche le piccole vittorie. Certo. Quella rubrica è stata raccolta in un volume, appunto quello che dicevo della Magic Press, che poi ha dato vita a una mini rubrica che si chiama Playrino, che è su nientedadire.it e su Instagram, nella quale io mi confronto con i lettori, non perché ne so di più o altre cose, ma per imparare insieme a loro sulla sessualità, perché se ne parla molto poco, e sempre in una maniera un po' divertente, un po' muffa. Playrino sta andando molto bene, fortunatamente. L'ho iniziato da meno di un anno, su Instagram c'è un sacco di risposta, tanto che la Magic Press, la mia casa editrice, ha voluto trasformare il progetto in un romanzo, nel sequel del Corno del Rinoceronte, in un piccolo libro game che vedrà la luce a questo cartoon al quale sto lavorando in questo momento. Bene, allora ci risentiremo poi quando questi progetti saranno terminati, così magari ce ne parlerai meglio. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. hai citato anche appunto il magazine che esce ogni 15 del mese, quindi insomma manca poco, manca una settimanella, quello di gennaio. Qualche sì, spoiler? Grazie per avermelo ricordato. Devo preparare ancora tutto, ok. Qualche spoiler di questo mese? Si parlerà di fumetti? Sì, si parlerà di fumetti, si parlerà dei fumetti sempre con uno sguardo alla moralità e all'attualità, come nostra tradizione, insomma. Il tema del nuovo numero sarà il sogno, ci sarà la copertina meravigliosa che la nostra Irene Buzzi ha preparato e la nostra copertinista che vedrete. Comunque sì, ci saranno anche interviste sul fumetto, sarà molto interessante, sarà un modo un pochino differente di parlare di fumetto, perché non parleremo direttamente dell'opera, ma utilizzeremo l'opera per parlare di altro. Bene, quindi attenderemo il 15 gennaio per l'uscita del nuovo magazine. Senti, sì, invece come ultima domanda ti volevo chiedere, siamo un po' in periodo di classifiche dell'anno passato, del 2019, ne avete stilata una, ci sono dei preferiti? Sempre per quanto riguarda i fumetti, ovviamente, dell'anno appena passato, qualche consiglio da darci? Qualche... Allora, tramite il nostro canale Twitch parleremo di queste fantomatiche classifiche e di cosa ci è piaciuto. Quindi diciamo che non l'abbiamo ancora resa pubblica. Tra i miei fumetti preferiti dell'anno c'è sicuramente Morgana, stampato da Tonué e di Kansara Effert, che mi è piaciuto particolarmente. Bene, perfetto. Allora attenderemo, oltre che il magazine del mese, anche su Twitch la vostra classifica 2019. Esatto. Grazie mille Daniele per la tua disponibilità e insomma rimaniamo collegati per le vostre prossime uscite. Grazie a te dell'interesse e buon fumetto. Grazie, grazie. What you done? I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong, and you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt on a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking time.

ore 11:37 torniamo in diretta con Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Copparoni e sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. E abbiamo appena ascoltato Alanis Morissette con Reasons I Drink. Alanis Morissette, che chissà se mai imparerò a pronunciare bene il suo nome, che mi confondo sempre con Annalise, ma prima o poi lo imparerò. È comunque famosissima cantautrice, attrice, musicista canadese, però in realtà naturalizzata statunitense. Proprio quest'anno, nel 2020, il suo album più importante compie 25 anni, l'album più importante della carriera della cantante, di Alanis, con oltre 16 milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, e sarà celebrato proprio questo anniversario dalla stessa artista canadese con un omonimo musical di scena Broadway, che andrà in scena proprio a New York City. Non è l'unico progetto che è in programma per il 2020, infatti ha già annunciato un nuovo album e un nuovo tour. Il titolo del nuovo progetto discografico è Such Pretty Forks in the Road e arriverà a 8 anni di distanza dall'ultimo album che aveva fatto uscire nel 2012. Il nuovo album invece uscirà il 1 maggio 2020 ed è già stato anticipato dal singolo che abbiamo appena ascoltato, Reasons I Drink. Nel testo si capisce anche già dal titolo, direi, si tratta della sofferenza e di come si trovi rifugio proprio nelle dipendenze. Infatti il titolo, insomma, è abbastanza chiaro. E vi ricordo ancora una volta le modalità con cui potete contattarci, mi raccomando, e mandateci un bel messaggino su WhatsApp tramite SMS o su Telegram al 333 180 9494. Seguiteci anche sui nostri social Facebook, Instagram, Twitter o anche su radiocittafujiko.it, che è il nostro sito dove potete trovare tutti gli articoli, le interviste dell'intera redazione di Radio Città Fujiko, e ovviamente andate anche a cercare Fujiko Comics sia su Facebook che su Instagram per vedere il dietro le quinte della preparazione di queste 2 ore di diretta. E continuiamo ad ascoltare un po' di musica, di voci femminili. Forse da qui in poi ascolteremo solamente voci femminili, già vi anticipo questa cosa, ma sapete, se mi ascoltate già da un po', che ho questa predilizione, questa preferenza. Ci andremo ad ascoltare Macy Gray, che è lo pseudonimo di Natalie Renee McKinty, cantante e attrice statunitense, esponente del neo soul, sviluppatosi a metà degli anni 90 all'incirca, e tra l'altro ho trovato anche una curiosità che non ricordavo di lei, perché il 16 febbraio del 2012 ha partecipato al Festival di Sanremo in qualità di ospite, esibendosi al fianco di Gigi D'Alessio e Loredana Bertè con il brano Almeno tu nell'universo, però nella versione inglese, che è stata intitolata Flame. E chissà, fatemi sapere se anche voi vi ricordavate o vi eravate dimenticati di questa cosa. Noi comunque adesso ci andiamo ad ascoltare la bellissima voce di Macy Gray con I Try. Games, changes and fears, when will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. Seem all right and smile when you leave, but my smile's up to Torniamo in diretta alle 11.45 sempre con Fuji Comics per parlare un po' di fumetti, non ce ne siamo mica dimenticati, e parliamo un po' di novità di questo 2020. Partiamo con un libro, un fumetto anzi, che è uscito proprio oggi però in Francia. Sto parlando del nuovo libro del fumettista americano Joe Sacco, che è uscito appunto oggi 8 gennaio 2020 per l'editore Futuropolis in collaborazione con la rivista 21. Il libro si intitola Pailler la Terre e poi ha un lunghissimo sottotitolo in francese che per le vostre orecchie risparmio di leggere, e sarà presentato al Festival di Angoulême, dove l'autore sarà appunto ospite. Il fumetto uscirà prima, è uscito prima in edizione francese piuttosto che inglese negli Stati Uniti, lo si può già ordinare online, e sarà un volume di 272 pagine. Joe Sacco, se non lo conoscete, è un po' considerato come dire il padre, il capostipite del giornalismo a fumetti, grazie a lavori ad esempio come Palestina, in cui appunto parla della Palestina, ma in questa nuova graphic novel sposta la sua attenzione verso il Canada e racconta la storia degli indiani Dene, la cui terra nel profondo nord-ovest sono state fortemente sfruttate dal governo canadese per ottenere il petrolio, terre di cui appunto erano ricche di petrolio. Altra novità in uscita, questa volta a marzo, quindi anche qui manca poco, sempre marzo 2020, si tratta di Michael e Laura Holred, gli autori di Mad Men, che pubblicheranno il loro primo albo di una nuova serie a fumetti in quattro numeri per Dark Horse, intitolata X-Ray Robot. Michael sarà scrittore e disegnatore, mentre Laura, che è appunto sua moglie, farà da colorista. Il fumetto, la serie a fumetti sarà incentrata su uno scienziato che durante un esperimento si ritrova davanti a sé un robot che afferma di essere lui stesso però a 277 anni più avanti nel tempo, e che è in grado di viaggiare appunto tra le dimensioni, e sarà ambientata all'interno dello stesso universo narrativo di Mad Men. E, ogni numero di questa collana di fumetti Avrà anche delle pin-up in 3D e insomma e quindi questa, aspettiamo questa collaborazione tra Laura Horved e Michael Horved. E continuiamo ancora con un po' di musica prima di parlare di altre novità, altre nuove uscite in questo nuovo anno, in questo nuovo 2020. E appunto prima ascoltiamoci un po' di musica e di una mia scoperta, tra l'altro, di questo ultimo anno. Sto parlando di Clairo, questa giovane ragazza scoperta tra i meandri di YouTube, ed è un fenomeno in cui dal 2017 se ne parla, ma io appunto l'ho conosciuto più recentemente grazie ad un mio amico. Il vero nome di Clairo è Claire Cottrill, è nativa del Massachusetts e è diventata, diciamo, famosa appunto nei meandri dell'internet, di YouTube, improvvisamente con il suo singolo Pretty Girl. C'è già chi la associa alle nuove leve della musica pop, come ad esempio Billie Eilish, e diciamo che viene definita un po' come una bedroom pop. Questo termine viene utilizzato per coloro che, per tutti i ragazzi e le ragazze che insomma gli artisti che producono della musica direttamente dalla loro cameretta, senza l'utilizzo di chissà quali strumenti, se non appunto il computer per riprendersi e insomma la loro voce, ecco. Il genere a cui viene associata è tarda vaporwave o neo lounge, insomma vari ambiti differenti tra loro, e comunque a me piace molto, quindi ve la volevo far ascoltare. Lei è Clairo con Forever. energy. You're so crooked, Claire. Sorry. E continuiamo a parlare di novità, continuiamo a parlare di fumetti, e in questo caso ci spostiamo oltre oceano e parliamo di Sean Gordon Murphy, disegnatore e autore di fumetti per DC Comics, come ad esempio ricordiamo Batman Cavaliere Bianco, ed è al lavoro su una nuova serie di Catwoman realizzata in collaborazione con la sceneggiatrice e romanziera Blake Northcott, che contribuirà alla scrittura della trama del fumetto. Ad annunciarlo è stato lo stesso disegnatore, lo stesso Murphy, con un tweet in cui ha mostrato una versione in bianco e nero di una delle copertine, di una di quelle che saranno le copertine della serie, e dice proprio lui stesso: questa è la prima volta che la disegno, così ho scelto di dare una mia interpretazione della versione animata, ed è una interpretazione un po' diversa perché ha il costume grigio e ha questi segni dei baffi dei gatti appunto sulla maschera. E un'ulteriore conferma di questo progetto è arrivata proprio sempre su Twitter dalla sceneggiatrice e romanziera Northcott, Blake Northcott, e anche lei appunto conferma questa nuova collaborazione per questo 2020. Altra novità questa volta in casa italiana, per la Sergio Bonelli Editore, che ha diffuso alcune tavole in anteprima del numero 1 di Daryl Zed, la miniserie di 6 albi dedicata al personaggio creato da Tiziano Scalvi sulle pagine di Dylan Dog, il numero 62, Caccia alle streghe, che è del 1992. L'albo, intitolato I mostri sono loro, è scritto da Tito Faraci, sceneggiatore dell'intera miniserie, e verrà disegnata da Nicola Mari, che è uno dei più longevi, diciamo, autori di Dylan Dog, mentre i colori, la colorazione dell'albo è affidata a Sergio Algozzino. E ci leggiamo anche un po' così rapidamente la trama, le pagine in anteprima di questo albo. Daryl Zed, il cacciatore di mostri nato dalla penna di Tiziano Scalvi nell'albo di Dylan Dog Caccia alle streghe, è alle prese con creature orrorifiche di ogni tipo nel primo dei 6 episodi di una coloratissima miniserie dai toni pulp che segna il ritorno di un personaggio amato dai lettori dell'indagatore dell'incubo. E appunto, se volete andare a vedere un po' le pagine in anteprima, vi consiglio andare sul sito di Fumettologica, in cui appunto troverete in anteprima alcune tavole del numero 1 di Daryl Zed. E chiudiamo, prima di andare in pubblicità, con un altro gruppo musicale conosciuto da me recentemente, sempre grazie a quello stesso amico che mi dà questi fantastici consigli musicali. Sto parlando dei Men I Trust, che sono un gruppo di genere indie pop, dream pop, che si è formato nel 2014, quindi ormai da un po' di anni, in Quebec. Il gruppo è formato da un basso, una voce che anche alla chitarra e una tastiera che fa anche post editing, mentre questo brano, che si intitola Lauren, è del 2016 e ora noi ce l'andiamo ad ascoltare. Thank you. Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Ore 12.08, torniamo in diretta con Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Copparoni, per questa ultima parte della 12ª puntata di Fuji Comics. Abbiamo appena ascoltato la meravigliosa voce di Esperanza Spalding, bassista e cantante statunitense. È, oltre ad avere una bellissima voce, anche veramente una donna fantastica. All'età di 5 anni ha cominciato a suonare il violino seguendo gli insegnamenti della madre, madre ed è entrato in una famosa scuola di musica in Oregon e ci è rimasta per 10 anni. All'età di 15 anni ha il ruolo di primo violino, poi insomma ha avuto dei problemi di malattia, diciamo, però ha iniziato a seguire un corso di chitarra jazz dopo tanti anni. Sempre nell'infanzia ha suonato anche il clarinetto, l'oboe, il contrabbasso, quindi insomma oltre che cantante la definirei anche decisamente una polistrumentista meravigliosa. E torniamo per l'ultima rubrica di Fuji Comics, quella che conclude un po' la puntata, queste due ore di diretta, ed è la rubrica in cui sono racchiusi tutti gli appuntamenti, tutti gli eventi, tutti i motivi di incontro in cui si parla di fumetti, anche le feste, le fiere. E quest'oggi appunto la voce prestata per racchiudere gli eventi della settimana è quella del nostro direttore Alessandro Canella, che ci ha appunto parlato degli eventi sia bolognesi, ma siamo arrivati fino a Modena ed Empoli, perché ci sono due importanti fiere del fumetto e dell'illustrazione, e quindi ci andiamo a sentire la voce di Alessandro e insomma tutti i vari eventi bolognesi e non solo. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, questa è l'agenda degli appuntamenti della settimana nell'ambito delle illustrazioni e del fumetto. Si parte con martedì 14 gennaio alle ore 18 presso la Coppa Ambasciatori in via degli Orefici 19 l'incontro con Sergio Staino per la presentazione del suo libro Hello Jesus, edito da Giunti. Ne parlano con l'autore Emanuele Felice ed Ellie Schlein. Genuino, inquieto e un po' naif questo Jesus moderno che ci fa ridere, dubitare e pensare. Vive in una Nazareth appena italianizzata, o forse al contrario, ed è un uomo del nostro tempo con una schiettezza disarmante e una propensione inspiegabile per il deserto e il wifi. Uno strampalato amico di nome Peter, con cui condivide la passione per Bob Dylan e la chitarra, una mamma un po' troppo giovanile, preoccupata per i capelli incolti del figlio e per la sua assurda idea di diventare profeta, con tutti i profeti disoccupati in giro per la Galilea, e infine una figura paterna burbera e bonaria come Joseph, tanto simile a Bobo, a cui sarà impossibile non affezionarsi. Tra il timore che la falegnameria del padre venga mangiata dall'IKEA, le astuzie di un demonio che lo tenta con la succosa rivelazione dell'identità di Elena Ferrante, le incursioni di un Salvini armato di rosario e le ricette miracolose di un fiducioso Di Maio, Jesus teme davvero di perdere di vista quale sia la sua strada. Forse l'unico modo per sbarcare il lunario è offrire la sua storia a un editore. Peccato che Marco, Giovanni, Luca e Matteo abbiano già avuto la stessa idea. Passiamo a Modena per l'ottavo Cosmo Comics, che si terrà sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 presso Modena Fiere in viale Virgilio 70/90. Cosmo Comics è la versione multimediale della tradizionale fiera del fumetto, che oggi è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti dei comics and games in tutte le loro sfaccettature. È ricchissima la sezione dedicata ai comics, che offre un panorama completo del mercato del fumetto. Accanto ad interessanti pezzi d'antiquariato viene presentata una panoramica delle nuove tendenze dell'editoria di settore. Sono molti gli stand dedicati al fumetto seriale, come le collane bonelliane alla portata di tutte le tasche, o quelli dedicati ai personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto, da Martin Mister ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto. Atteso special guest di Cosmo Comics è Enzo Facciolo, storico fumettista che all'inizio degli anni 60 ha dato a Diabolik il volto che tutti conoscono. Il disegnatore è a disposizione del pubblico per autografare i fumetti, raccontare la sua straordinaria carriera artistica e illustrare le basi tecniche e teoriche delle sue creazioni. E concludiamo con l'appuntamento alla 17ª mostra Mercato Scambio Fumetti Dischi ad Empoli sabato 11 e domenica 12 gennaio al Palazzo delle Esposizioni in Piazza Guerra 13 dalle 9 alle 19:30 con ingresso libero. Questa era l'agenda degli appuntamenti della settimana. Io vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze. three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Abbiamo appena ascoltato Corinne Bailey Rame, che è una cantautrice chitarrista britannica. Questo appunto è il secondo singolo estratto dall'album Put Your Records on You, diciamo decisamente il suo più grande successo. Infatti ha raggiunto la vetta della Official Singles Charts e vende oltre 945.000 copie negli Stati Uniti. Inoltre, diciamo, ha avuto anche il merito, sempre questa stessa canzone, di far conoscere la cantante un po' in tutto il mondo, facendola entrare nelle classifiche non solo degli Stati Uniti ma di diversi paesi, sia in Europa, per arrivare fino all'Australia, ed era una delle grandi voci femminili che insomma hanno composto la playlist di questa 12ª puntata di Fuji Comics. E noi siamo giunti ormai alla fine di questa puntata di Fuji Comics. Io ringrazio come sempre tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Mi raccomando, se vi siete persi qualcosa di questa 12ª puntata, andate a ritrovare il podcast sia su archive.com, in cui appunto trovate tutti i podcast delle tutte le 12 puntate di Fuji Comics, oppure altrimenti potete andare sul sito www.radiocittafujiko.com musicomusico.it e andare a ricercare un po' gli articoli con le interviste singole ai vari artisti e artiste che hanno preso parte alle puntate di questo format. O altrimenti, come sempre, potete andare sia su Facebook che su Instagram e cercare Fuji Comics per avere ulteriori informazioni e per vedere un po', insomma, quello che accade dietro le quinte delle puntate e avere qualche anticipazione delle prossime puntate. Noi ci vediamo come sempre il mercoledì, quindi prossimo mercoledì, sempre dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza, per parlare di fumetti e fare tante chiacchiere insieme. Che dirvi, vi auguro ancora una volta un buon inizio anno, un buon 2020 e anche un buon pranzo, perché insomma è quasi ora di mangiare. Prima di congedarvi, di congedarmi definitivamente, vi lascio ad un ultimo pezzo scelto per concludere un po' questa compilation di voci, di grandi voci femminili, e volevo concludere appunto con Norah Jones, che è cantautrice, polistrumentista e attrice statunitense. Ha ottenuto un grandissimo successo nel 2002 con l'album di esordio Come Away With Me, che ha venduto circa 25 milioni di copia. Dopo questo strabiliante successo mondiale ha vinto molti altri premi internazionali, e bisogna citare giusto questo perché è veramente importante: ha vinto 5 Grammy Award in una sola serata, il record è stabilito solo da altre 4 artiste. Sto parlando di Alicia Keys, Beyoncé, Amy Winehouse e Lauryn Hill, quindi insomma rientra nella top 5 delle grandi donne con la grande voce. E quindi, che dirvi, vi saluto ancora una volta, vi ringrazio. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre 10:30-12:30, con Fuji Comics, con la vostra Rachele Copparoni, e vi lascio a Norah Jones con Don't Know Why. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. I didn't come.